Siamo al telefono con Marco, in arte Galeffi, perché sarà presto, il 16 luglio, sarà qui a Bologna per il Bonsai Garden. Intanto ciao Marco, grazie mille della disponibilità. Ciao a tutti, sì, c'è questo concerto, io non vedo veramente l'ora. Bologna è una città che amo, nel piccolo mi ama anche, possiamo dirlo, perché ogni volta che vengo è sempre un'emozione, la gente è molto calda e quindi onestamente non vedo l'ora, è una data per me molto importante. Però. Allora, il tuo Belvedere estivo tour ha già toccato alcune date, c'è stato il Next Station a Bergamo, il Nameless Festival in Brianza. Come sono andate, com'è stata un po' l'accoglienza alle tue nuove tracce da parte del pubblico? No, guarda, è stato bello, ma io ero fiducioso perché insomma abbiamo finito il tour invernale nei club di tutta Italia a inizio febbraio e quindi insomma, presi un po' anche dall'entusiasmo, devo dire che il tour è continuato un po' come era finito, no? La gente è contenta e evidentemente questi anni di pandemia e di stop ai concerti hanno fatto accumulare energie insomma per i concerti che sono arrivati nell'ultimo periodo, quindi la gente ha proprio voglia, non so se sono stato io, ma penso un po' tutti quanti colleghi. È un momento molto bello perché c'è questa sensazione di rinascita a livello live. Di libertà e voglia di scatenarsi, insomma. E tu in questo tour estivo porti i brani del tuo nuovo album che si chiama Belvedere, è uscito molto recentemente, contiene 12 pezzi. E cosa c'è di nuovo rispetto al Galeffi di prima? Ma io penso che ci sia una naturale evoluzione anche una nuova consapevolezza. È sempre un po' difficile parlare delle canzoni che scrivi, no? A me sembra semplicemente un po' come le altre, ma con qualche anno in più, e quindi quegli anni in più, sia da un punto di vista professionale che umano, poi li metti nelle canzoni, o contorno, insomma, ci provi il più possibile a essere in sincro con la vita che fai, con la vita che vivi. Penso di aver avuto, leggendo anche qualche recensione del disco, insomma, di colleghi tuoi, un'evoluzione che io ritengo sia stata naturale non ti so dire di più. Beh, poi lo scopriremo magari dal vivo. Ecco, ci sono alcuni temi, dicevi, un'evoluzione naturale. Quali sono un po' i temi di cui tratti in queste canzoni? Principalmente parlo di, diciamo, superficialmente possiamo definire le canzoni d'amore, anche perché non mi sento pronto magari per parlare di altri temi che possono essere politici o non so. Però insomma, parlare tutti quanti fanno d'amore, è sempre un po' il come che distingue un artista da un altro, dall'identità, dalla scrittura, dalla poesia e dalla musica ovviamente. Credo che quindi all'interno delle canzoni ci siano, io non riesco a definire canzoni d'amore, forse esistono più canzoni, ti direi, esistenziali, però hanno un vestito da canzone d'amore, quel vestito lo si può togliere, insomma, anche alle canzoni possono rimanere nude anche loro. E poi possiamo dire che anche la bellezza della musica e dell'arte in generale è che ognuno ci legge un pochino quello che forse vuole leggerci, ecco. Esatto, è fondamentale che sia anche così. Delle volte magari parli con i fan a fine concerto, quando capita, e ti chiedono, ma io questa canzone la ho visto questo e quest'altro, e magari tu minimamente ripenso da quella roba lì, ed è anche bello che ci sia questa sorta di scarto, no? tra quello che penso tu e quello che invece pensano gli altri delle tue canzoni, quindi delle volte è anche più interessante quello che vedono gli altri che quello che vedi te. Tra l'altro la tua voglia di musica si vede anche dal fatto che appena uscito l'album, poco tempo dopo è uscito un singolo nuovo non compreso nell'album che si chiama Nirvana Van Gogh. Ecco, di cosa parla questo e cosa accomuna Nirvana e Van Gogh? Ma nulla, infatti mi piaceva metterli insieme, al di là ovviamente di essere degli artisti, uno in un campo musicale, l'altro in un campo di pittura, giganteschi per l'umanità, forse un po' di follia banalmente che hanno entrambi, sia Kurt Cobain che Vincent Van Gogh, però questo accoppiamento mi piaceva mi piaceva proprio avvicinarlo, anche lì, magari sperando che qualcuno trovi la sua maniera di sintetizzare questa somma di questa somma qua. Comunque la canzone è una canzone sì, che sta fuori dal disco, e è una canzone che ho scritto, mi sembrava una delle poche canzoni mie, non ti dico estive, perché non sono evidentemente bravo a scrivere canzoni estive, e per estive intendiamo reggaeton e robe un po' più, non lo so, radio. Diciamo lontane però da quello che fai mia, tu? Cioè, lontane da quello che faccio io, però diciamo per essere me era comunque una canzone insomma, che a me piaceva, altrimenti non l'avrei ovviamente pubblicata. E lui sembrava anche una canzone leggera nel senso più puro del termine, nel senso che non era così pesante come per certi versi lo è il disco, e, però allo stesso tempo mi faceva sentire, ogni volta che la sentivo in cuffia quando ci stavo lavorando mi faceva venire voglia di ballare, di muovere il corpo, e quindi ho detto non c'è momento migliore per pubblicarla. Beh, perfetto. Allora, prima di ascoltarci Nirvana Van Gogh, io ti chiedo un'ultima cosa. Se hai un invito, un messaggio alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori bolognesi e non solo, per venire, intanto ricordiamo, il 16 luglio a Bonsai Garden, ma in generale al Belvedere Estivo Tour a vedere un concerto di Galeffi. Se hai un invito da fare. Ho un invito? Ragazzi, signori e signori, venite a sentirmi, perché di sicuro, non lo so, non sono bravo a fare queste cose. Però noi e per noi intendo io la mia banda di pazzi, di sicuro sul palco troviamo la nostra dimensione, ecco, questo sicuramente. Molto spesso Spotify è un po' fuorviante, per certi versi possiamo definirlo, non so se chiamarlo un social, non lo so, un'app bugiarda, il live è invece molto reale, suoniamo tantissimo, ci divertiamo e soprattutto ci mettiamo il cuore quando stiamo davanti a tutti coloro che ci prestano attenzione, quindi questo sì, poi a fare robe da venite, dai, non ve ne pentirete, non è la mia cosa. Beh, allora lo diciamo noi, andate a sentire un concerto di Galeffi, tra cui Bonsai Garden, appunto, ricordiamo che non ve ne pentirete. La tua malinconia mi ricorda New York, una videocassetta e quella gonna bordeaux. Sigue. domani c'è il sole. Nuvole e nirvana in autostrada senza navigatore.